tutto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Protesta contro i profughi. Gli abitanti di Goro nel Ferrarese impediscono con le barricate l'arrivo di 11 donne e 8 bambini. Presentato il piano per il Monte dei Paschi, 5 miliardi di aumento di capitale, 2.600 esuberi, il taglio di 500 filiali. Manovra ancora attesa per la lettera di Bruxelles all'Italia. Vogliono farci le pulci, ma noi rispettiamo le regole, dice Renzi. Vietato conservare le ceneri in casa, disperderle o farci gioielli. Ecco le regole della Chiesa per la cremazione. Dopo 42 anni chiude a Roma Agata e Romeo, dove cenarono Clinton, Sofia Loren e Bill Gates. Al suo posto un ristorante cinese. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Siamo in diretta da Parma, da Cibustec, la fiera dedicata ai macchinari e alle tecnologie per il settore agroalimentare. Più avanti ne parleremo, intanto i nostri contatti 349-238-6666 per i vostri sms, effettogiorno@radio24.it se ci volete scrivere. In apertura dunque il capitolo dedicato all'immigrazione anche oggi. A Goro le barricate dei cittadini fermano l'arrivo di donne e bambini. Valeria De Rosa, buongiorno. Sì, buongiorno a te Simone. Allora, in breve, che cosa è successo ieri sera? Ieri sera dovevano arrivare queste 12 donne, e solo donne, perché poi il prefetto ha chiarito proprio il numero delle persone, tutte profughe di varie nazionalità di paesi africani, e dovevano arrivare a Gorino, che è una frazione di Goro, in provincia di Ferrara. Dovevano essere ospitate in un ostello che era stato requisito poche ore prima. Gli abitanti hanno impedito il passaggio della corriera, che ha fatto marcia indietro e ha portato queste donne in altre strutture sempre della provincia, non prima però di una lunga mediazione tra il comandante dei carabinieri e i cittadini, mediazione in cui il comandante ha tentato di convincere la popolazione, e lo sentite in questo audio pubblicato dal sito della Nuova Ferrara. Stiamo parlando unicamente di 12 donne, di cui una incinta di 8 mesi. Mi interessa bene? No, no. Mi frega niente. Mi frega niente. Piano, piano. Ecco, diciamo che ci sono volate anche parole molto più grosse in questo scambio, ma il comandante dei carabinieri ha sempre tentato di mantenere la calma. Questa mattina il prefetto di Ferrara, Michele Tortora, ha tenuto una conferenza stampa in cui ha spiegato prima di tutto il perché della scelta di Goro e di questo ostello. Sono mesi che stiamo tentando di trovare disponibilità presso alberghi, strutture, tutti gli alberghi del Comacchiese credo che siano stati contattati da nostri operatori per cercare di trovare, e tutti quanti ci dicono che sono al completo appena sentono parlare di profughi. Ecco, poco prima il prefetto aveva spiegato che Goro è l'unico dei comuni della provincia di Ferrara che non ospita al momento alcun profugo, alcun migrante, quindi proprio per questo era stato scelto Goro, anche perché essendo un periodo, diciamo, in autunno non ci sono molti turisti, quindi l'ostello era stato scelto per questo. A domanda diretta se quanto è successo ieri rappresenti un precedente, il prefetto ha risposto che il rischio c'è, è molto concreto, ma ha detto anche molto chiaramente che non potevano prendere a manganellate la gente del posto. Su questo episodio è intervenuto anche il prefetto Mario Morcone, capo del Dipartimento Immigrazione del Viminale, il quale questa mattina ha dichiarato: gli italiani che rifiutano l'aiuto doveroso a donne e bambini sono ottusi, mi vergogno di averli come connazionali, se non vogliono vivere nello stesso posto dove diamo accoglienza ai profughi, andassero a vivere in Ungheria, ha dichiarato Morcone, noi staremo meglio senza di loro. E questo è quanto accaduto nelle ultime ore a Goro e Gorino. Ti ringrazio, grazie alla nostra Valeria De Rosa per questo aggiornamento, e più avanti nel corso del nostro giro per l'Italia è proprio con Goro che ci collegheremo, dovremo riuscire a parlare con il sindaco della città. Intanto in Francia a Calais prosegue lo sgombero della cosiddetta giungla. Composti, rassegnati, i migranti di Calais anche oggi fanno la fila davanti all'hangar dove vengono smistati per gruppi e davanti agli autobus 45 pronti a partire. Il difficile arriverà da domani, quando bisognerà convincere coloro che invece non vogliono partire affatto. La capo missione di Medici Senza Frontiere, Anne-Lizzie Courier. Le persone che si sono convinte a partire in realtà sono molto stanche. La situazione nella giungla di Calais è disastrosa. Fa freddo, piove dentro le tende, quindi la prospettiva di andare in un posto caldo con dei servizi igienici ha convinto molti a partire. Il fatto è che poi spesso tornano a Calais. C'è poi il nodo dei minori non accompagnati, circa 1000 tra bambini e adolescenti. Un municipio inglese su 4, denuncia il Guardian, si rifiuta di accogliere i bambini rifugiati da Calais. E anche nei 283 comuni di accoglienza in Francia ci sono proteste dei residenti contro l'arrivo dei migranti. A Louvera il centro di accoglienza è stato dato alle fiamme. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Da Napoli dunque, dove alcuni striscioni incitano all'accoglienza a Goro, come abbiamo raccontato, provincia di Ferrara, dove vengono respinti donne e bambini. L'analisi di Daniele Biacchessi. A Gorino, in provincia di Ferrara, i cittadini erigono le barricate contro i migranti. Ad Aquilinia, vicino a Trieste, vandali distruggono l'auto del parroco che accoglie i profughi. A Milano, Lega e Forza Italia manifestano contro il trasferimento di 300 extracomunitari nella caserma Montello, ma i migliaia organizzano una contromanifestazione per accoglierli a novembre. E ieri, a Napoli e in altri luoghi del paese, appaiono invece striscioni di benvenuto. Sono i due volti degli italiani. Da una parte il rifiuto categorico dei profughi, la paura del diverso, dell'altro, il riaffiorare di culture di identità autoctone. Dall'altra c'è la solidarietà e l'accoglienza, quella di un paese che è stato nel passato portatore di immigrazione in tutto il mondo e che lo è ancora se si pensa alle migliaia di giovani costretti ad abbandonare l'Italia alla ricerca di un lavoro che per loro semplicemente non esiste. Ma le grandi migrazioni, molto spesso derivate da guerre e conflitti insanabili, non si risolvono, come dire, in proprio, cioè ognuno a casa sua. Manca una politica europea sull'immigrazione e fa bene il nostro governo a evidenziare che senza una coesione generale, senza cioè un progetto comune condiviso, il tema dell'immigrazione sarà al centro della cronaca ancora per molti anni. E notizie che arrivano dalla Germania: atti criminali legati all'odio xenofobo e politico sono aumentati nel 2015 del 77% rispetto all'anno precedente. Sono indiscrezioni di stampa sui risultati di una relazione finale del governo sul dialogo con i cittadini che sarà discusso domani nella riunione dell'esecutivo. Secondo il rapporto, nel 2015 sono stati registrati oltre 10.300 casi classificabili come atti punibili di reati di odio contro idee politiche, nazionalità, colore della pelle o religione, lo scrive appunto un quotidiano bavarese. Andiamo adesso nei luoghi dai quali vengono molti richiedenti asilo, profughi o semplicemente immigrati: Siria, Iraq, Pakistan, nel giorno nel quale a Parigi si riunisce la coalizione anti-ISIS, lo jihadismo colpisce. Dopo una prima rivendicazione da parte dell'ISIS, anche altri gruppi radicali islamici sostengono di aver compiuto il grave attentato di stanotte contro un'accademia di polizia a Quetta, in Pakistan. In un comunicato diffuso per primo dall'agenzia Maca vicina all'ISIS, era scritto che 3 combattenti, infiltratisi dietro le linee, avevano attaccato una scuola di polizia nel capoluogo della provincia pakistana sudoccidentale del Baluchistan. I terroristi, dopo aver fatto irruzione in piena notte mentre circa 700 cadetti dell'accademia stavano dormendo, si sarebbero scontrati per alcune ore con i poliziotti con mitragliatori e bombe a mano e alla fine degli scontri avrebbero attivato le cinture esplosive che indossavano, causando la maggior parte delle vittime tra i poliziotti. Sempre in Pakistan, oggi un ufficiale di polizia è morto e un artificiere è rimasto ferito vicino a Peshawar, nella zona nord-occidentale, per l'esplosione di 2 ordigni rudimentali utilizzati per un attentato ad un team antipolio. In Kenya, invece, almeno 12 persone sono rimaste uccise dai terroristi somali di Al-Shabaab in un attacco esplosivo contro una guest house a Mandera, nel nord-est del paese, al confine con la Somalia. E sempre gli islamisti somali di Al-Shabaab hanno compiuto oggi un attacco con un camion imbottito di esplosivo contro una postazione dell'Unione Africana in Somalia. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Cambiamo decisamente argomento e ritorniamo all'Italia per parlare di Monte dei Paschi. Oggi è stato presentato il piano, ha seguito la presentazione, la sta seguendo la nostra Livia Zancaner. Livia, eccoci, vai. Buongiorno Simone, allora chiusa poco fa la conferenza stampa, il neo amministratore delegato di MPS Marco Morelli ha ribadito i punti chiave del piano di salvataggio: scorporo delle sofferenze per 27 miliardi e aumento di capitale fino a 5 miliardi di euro. L'aumento andrà al voto in assemblea il 24 novembre per partire i primi di dicembre e sarà composto da tre elementi: conversione potenziale dei bond su base volontaria e aperta a tutti, offerta sul mercato e ricerca di potenziali coinvestitori, garantendo, ha sottolineato la D, massima apertura a chi vorrà partecipare a rafforzare il capitale. Una volta finito questo cammino, il Monte dei Paschi dovrà tornare a fare la banca come ha sempre fatto, ha detto Morelli, quindi radicata sul territorio, orientata al retail e alle imprese. A fine piano, al 2019, i target prevedono un utile netto sopra 1,1 miliardi, 2.600 esuberi, 300 assunzioni e la chiusura di 500 filiali. Riguardo ai conti, il Monte dei Paschi di Siena ha chiuso i 9 mesi con un rosso di quasi 850 milioni. Ed è tutto. Grazie Livia Zancaner per questo aggiornamento. Siamo alla manovra e siamo ancora in attesa di Bruxelles, della lettera di Bruxelles. Vincenzo Miglietta, ciao, buongiorno. Sì, buongiorno, è così, lettera da Bruxelles di cui ancora non si ha notizie, è abbastanza scontato, Simone, che arrivi nelle prossime ore, ma secondo alcune fonti europee sarebbe molta la cautela degli esponenti della Commissione con la necessità di limare i termini delle osservazioni per non dare il fianco ad ulteriori critiche da parte del governo italiano, critiche che sono proseguite anche ieri. La manovra non cambia, ha ripetuto il Presidente del Consiglio Renzi, non voglio alzare il livello dello scontro, ma di cosa stiamo parlando, si domanda il Premier alludendo al contestato 0,1% di deficit. In realtà anche a Palazzo Chigi sanno benissimo che la lettera dell'Unione Europea è scontata e che arriva a tutti i paesi, non solo il nostro, che hanno presentato a metà ottobre una finanziaria che si discosta dalle regole europee. Ricordiamo allora su cosa si concentrerebbero i dubbi di Bruxelles: certamente sul livello del deficit e sul debito che non scende, non sulle circostanze eccezionali quali la ricostruzione e i migranti. Su quest'ultimo punto però, visto anche quanto sta accadendo con gli sbarchi nelle ultime ore, Renzi ricorda, se vogliono che l'Italia spenda meno per l'immigrazione, inizino ad aprire loro le porte dell'Europa, a fare quello che hanno promesso. È tutto, linea allo studio. Grazie dunque a Vincenzo Miglietta, era atteso per stamattina, è arrivato il set di regole della Chiesa per la cremazione. Vietata la dispersione in aria, in terra, in acqua o in altro modo, vietata la conservazione in casa, vietata la conversione in pezzi di gioielleria o altri oggetti. Ecco i nuovi paletti sulla cremazione e sulla destinazione delle ceneri, contenuti in un documento messo a punto dalla Congregazione per la Dottrina della Fede. Linee guida dal titolo Ad Resurgendum con Cristo, pubblicate oggi in varie lingue. Un vademecum infatti atteso dalle conferenze episcopali di tutto il mondo, anche per evitare in un terreno così delicato il fai da te. Nel documento si ribadisce che la cremazione del cadavere è ammessa, lo è infatti dal 1963, poiché non tocca l'anima e non impedisce l'onnipotenza divina di risuscitare il corpo, ma deve avvenire dopo la celebrazione delle esequie e non per una scelta di contrarietà alla fede. Le ceneri del defunto poi devono essere conservate di regola in un luogo sacro, e cioè nei cimiteri. Solo in circostanze gravi ed eccezionali, si precisa, può essere dato il permesso per la conservazione nell'abitazione domestica. Dunque la cremazione è ammessa, si diceva, ma il documento precisa che la Chiesa continua a preferire la sepoltura dei corpi, poiché con essa si mostra una maggiore stima verso i defunti. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Dalle questioni che riguardano il cielo andiamo a una questione che riguarda una nuvola ben più concreta, quella di Fuxas, che è stata presentata oggi a Roma. Andrea Viali, buongiorno. Sì, è così Simone, un auditorium da 1800 posti, spazi espositivi e un albergo in un'area di 55.000 metri quadri nel quartiere dell'Euro, è questa la nuvola, il nuovo centro congressi di Roma realizzato, lo dicevi, dall'archistar Massimiliano Fuxas, voluta addirittura dal sindaco Rutelli, quella che negli anni scorsi era sembrata un'opera destinata a diventare una delle molte incompiute d'Italia, sarà invece inaugurata sabato, questo sabato, alla presenza addirittura del premier Renzi, costata 239 milioni, meno dei 275 milioni previsti. Per realizzare la nuvola sono stati necessari 18 anni, 9 soltanto per la costruzione, un periodo nel quale non sono mancate le polemiche, per ultime, dobbiamo dire, quelle legate alle parole proprio di Fuxas, che domenica ha in qualche modo auspicato che a gestirla siano i tedeschi e non un ente pubblico italiano come l'Euro SPA, che ne è proprietario e che, lo ricordiamo, è stato coinvolto anche in Mafia Capitale. A preoccupare l'architetto è che il rischio che questa sua creatura venga abbandonata a se stessa, se nei prossimi due anni non verrà utilizzata, la nuvola andrà inevitabilmente incontro al degrado. Ha avvertito oggi Fuksas, che incontrando qui a Roma la stampa estera ha anche aggiunto che in Italia oggi, in questi giorni, il problema non sono i politici quanto la classe dirigente. Simone. E grazie dunque Andrea Viali. Il problema non sono i politici, dice Fuksas. C'è qualcuno che pensa che il problema dei politici invece ci sia e sia quello degli stipendi. Il Movimento 5 Stelle, che oggi vede arrivare in discussione alla Camera il suo DDL per il dimezzamento appunto delle indennità. Elisabetta Fiorito, ciao, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, non ci sarà probabilmente il voto sul taglio dell'indennità dei parlamentari chiesto dal Movimento 5 Stelle qui nell'aula di Montecitorio. Il provvedimento verrà rimandato in Commissione Affari Costituzionali e probabilmente ad inizio seduta, ma intanto Beppe Grillo è a Roma, siederà in tribuna nell'emiciclo nel settore per il pubblico, mentre fuori alla Camera si prepara un sit-in di protesta. Il PD boccia la proposta 5 Stelle come farsa e demagogia politica in vista del referendum, e oggi interviene anche il governatore della Toscana Enrico Rossi, che chiede una posizione condivisa tra Movimento 5 Stelle e PD. Gli stipendi dei parlamentari sono troppo alti, dice, sarebbe giusto che l'indennità fosse legata alla presenza in aula, così Rossi sposa l'idea del premier Matteo Renzi. Ma dal presidente della CEI Angelo Bagnasco invece si dice che sarebbe un segnale positivo il taglio dello stipendio, mentre c'è chi, come Marco Marcolin di Scelta Civica, propone addirittura di raddoppiare l'indennità dei parlamentari per rispondere alla demagogia di Grillo. A te Simone. Grazie dunque ad Elisabetta Fiorito. Come si diceva in apertura, oggi siamo in diretta da Parma, dove si svolge Cibus Tech, la fiera dedicata ai macchinari e alle tecnologie per il settore agroalimentare. Sentiamo cosa ci racconta di questa giornata di apertura il nostro Adriano Palazzolo. L'industria alimentare è il secondo comparto manifatturiero italiano e si stima chiuderà il 2016 con un fatturato di 134 miliardi di euro. Ma cosa c'è dietro al prodotto? La risposta la troviamo a Cibus Tech, che inaugura oggi alla Fiera di Parma la sua 51esima edizione. Una manifestazione dove i protagonisti sono le tecnologie di processo, il packaging, gli ingredienti e la logistica dell'agroalimentare. A parlare dello stretto legame tra tecnologia e alimenti è Antonio Ceglie, amministratore delegato di Fiere di Parma. È fondamentale, perché in realtà noi abbiamo una filiera dove non si capisce dove finisce la tecnologia e dove inizia il prodotto. Tutti i nostri campioni dell'agroalimentare sono sempre portatori di innovazioni di natura tecnologica, perché alla fine il nostro meccano alimentare ha saputo industrializzare delle conoscenze antiche. Cibus Tech è dunque una vetrina delle soluzioni disponibili per tutte le tipologie di prodotti, ma c'è dell'altro. La manifestazione è anche una piattaforma per la promozione delle tecnologie alimentari nei mercati esteri ad alto potenziale. Ed è proprio l'export il segmento fondamentale per la crescita, come spiega Stefano Bellucci di SACE, il polo di Cassa Depositi e Prestiti a supporto dell'internazionalizzazione delle aziende. Per il 2016 siamo molto ottimisti e prevediamo un aumento ulteriore di circa il 2% rispetto al 2015, con un'ulteriore crescita di 400 milioni nel successivo biennio, con il rafforzamento della focalizzazione sull'export in aree strategiche quali Stati Uniti, Cina, India e Messico. Adriano Palazzolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parma. Adesso andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi inizieremo il nostro giro per l'Italia. Lo inizieremo proprio da Goro, dove, come vi abbiamo raccontato in apertura, c'è stata una protesta che ha portato al fatto che 12 donne che dovevano essere accolte in un ostello sono state portate in altri luoghi. Gli abitanti hanno messo le barricate. Dovremo riuscire a collegarci con il sindaco, se ci riusciamo. Parleremo di un ristorante romano, un ristorante ultra blasonato che chiude i battenti e vende ai cinesi, e poi ci occuperemo anche di caccia tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato di immigrazione con la protesta di Goro, abbiamo parlato del piano per il Monte dei Paschi, abbiamo parlato di manovra, abbiamo parlato delle nuove regole date dalla Chiesa per quanto riguarda le ceneri: non possono essere disperse ed è vietato conservarle in casa, bisogna metterle in cimitero. Adesso però ritorniamo all'immigrazione settore. E ritorniamo a Goro. Siamo in linea con il sindaco Diego Viviani. Buongiorno sindaco. Buongiorno. La vicenda, per chi si fosse messo in collegamento solamente adesso, è questa. Gli abitanti di una frazione di Goro, Gorino, hanno fatto delle barricate per evitare che fossero ospitati in un ostello alcuni profughi o richiedenti asilo, anzi alcune profughe o richiedenti asilo per essere esatti. Si tratta di 12 donne, tra cui una donna incinta. Vorrei innanzitutto una sua valutazione su quello che è successo, sindaco. Niente, la valutazione è che effettivamente è stata un'operazione tempestiva condotta chiaramente in emergenza da parte della prefettura con la requisizione della struttura della provincia e l'ostello che si trova in piazza dell'abitato di Gorino. È improvvisa perché è avvenuta ieri pomeriggio con l'imposizione di appunto del sequestro e dell'arrivo di alcuni profughi. È chiaro che inizialmente c'erano dei numeri non precisi, non si sapeva effettivamente quanto, come, dove, e la cittadinanza si è allarmata improvvisamente anche perché la frazione è piccola. Ma come giudica la reazione? Mi scusi, come giudica la reazione dei suoi concittadini, vorrei capire, sindaco? È stata una reazione forse anche un po' esagerata da un certo punto di vista, ma è chiaro che così che la notizia è arrivata come un fulmine ciel sereno. Mi dispiace, io poi ne ho parlato chiaramente anche con il prefetto, che ho capito che si è trovato in una situazione di difficoltà e di emergenza, però mi dispiace che non sono riuscito a fare un'azione preparatoria della cosa prima, perché anch'io l'ho imparato all'ultimo momento, e così si rischia di avere reazioni di questo tipo, perché poi si è un po' tutti in preda all'allarmismo, la popolazione chiaramente rispetto a quello che legge dai media, rispetto a tutte le situazioni che riguardano i migranti. Mi scusi sindaco, quindi lei è d'accordo con la reazione dei suoi concittadini? Voglio solo capire questo. No, io dico solo che c'era da aspettarsi che senza preavviso la cosa fosse digerita male. Questo è chiaro. Poi sì, io, però mi scusi sindaco, le ho fatto una domanda precisa, se è d'accordo oppure no con la protesta dei suoi concittadini? Guardi, io sono d'accordo sul fatto di non sentirsi diciamo così parte integrante del sistema. Sono un uomo di mare, se mi fa il discorso sulla questione dei migranti, io dico che la gente in mare non va lasciata a balia del mare. Ma sì, va però salvata. Non stiamo parlando del mare, cioè stiamo parlando semplicemente di quella che è stata la reazione di alcuni suoi concittadini di fronte all'arrivo appunto di questi profughi. Poi non è stato chiarito inizialmente, si trattava appunto di 12 donne, insomma, e questa cosa impressiona oggettivamente, no? Cioè il fatto che si facciano le barricate di fronte a 12 donne, di cui una è incinta. Lo dico senza valutazioni morali in questo momento. Cioè, dico, che sono state fatte le barricate. Sì, per quello che è stata l'informazione, è arrivata la sera, quindi. Senta, il prefetto Morcone, che è il responsabile immigrazione del Viminale, dice, il capo del Dipartimento Immigrazione, dice: gli italiani che rifiutano l'aiuto doveroso a donne e bambini sono ottusi, mi vergogno di averli come connazionali. È una frase forte alla quale capisco benissimo la difficoltà che ha il prefetto nel gestire la situazione. Io dico solo che da parte mia vivo in un piccolo contesto di un piccolo paese e faccio quello che posso per tentare di gestire le situazioni. Sì. Col tempo che ho avuto e nel modo che ho avuto ho fatto molta fatica, nel senso che così sono un po' estraniato dal tutto. Dopodiché chiaramente nei prossimi giorni assieme alla prefettura cercheremo di gestire al meglio la situazione e far rientrare l'emergenza e fare tutta una serie di valutazioni che adesso mi scusi, per rimanere sulla cronaca, fatto aperto il dialogo con la prefettura e chiarite le cose, lei pensa che a Gorino possano essere ospitati dei profughi oppure no? Guardi, adesso io farò alcuni incontri anche con la mia cittadinanza e sentirò chiaramente quelle che sono le loro impressioni, non più a caldo. Ma lei pensa che si possa, sì o no, sindaco? Mi scusi, cerchiamo di... abbia pazienza, non è che voglio essere così brutale, però ho delle domande e vorrei delle risposte. Secondo lei si possono ospitare i profughi a Gorino oppure no? Non riesco a darla questa risposta qui. Prima devo incontrare la cittadinanza e dopo darò la risposta. La ringrazio, grazie al sindaco Viviani per essere stato con noi. Adesso nel nostro giro per l'Italia ci spostiamo a Roma per parlare di cosa? Del fatto che un ristorante importante, un ristorante stellato, un ristorante che ha visto tra i suoi tra le persone che hanno mangiato là i Clinton, Bill e Hillary, ha visto anche Bill Gates, tanto per fare un esempio, Roberto Benigni, Francesco Cossiga, chiude e vende ai cinesi. Carla Caraccio, la figlia del titolare, buongiorno, benvenuta. Si tratta del ristorante? Buongiorno. Il ristorante Agata e Romeo, che cosa succede dunque? Non basta una stella Michelin per, come dire, per tenersi in piedi economicamente? No, la realtà è che noi siamo un ristorante che si basa sulla nostra famiglia, è un ristorante che è da più di 40 anni che è all'attivo, è un ristorante dei miei nonni, adesso poi è passato ai miei genitori, e la terza generazione che siamo noi, siamo io e mia sorella, non ce la siamo sentita di portarlo avanti tutto qua. I miei genitori ovviamente erano stanchi dopo 40 anni di lavoro e la decisione più semplice, tra virgolette, è stata quella di vendere. Ora i cinesi, come ha fatto lei, sono venuti naturalmente, perché noi viviamo in un quartiere che è quello L'Esquilino, un quartiere multietnico dove c'è una grande comunità cinese, per cui era quasi scontato che lo comprassero loro, ecco, molto più è un po' semplice di quello che, sì. Che si dice. È un po' doloroso, no, per tutti i romani, immagino per voi, no? Dà una sensazione di qualcosa di importante che se ne va, no, Caraccio? Sì, sicuramente è doloroso per i romani e doloroso per noi come famiglia lasciare, però era giusto così, insomma, lo lasciamo in serenità, tranquilli, i miei genitori si godranno la loro pensione, i loro successi, continueranno a fare consulenze in giro per l'Italia e la vita va avanti, quindi siamo sereni rispetto a questo. Una storia che ha dato tanto alla città e continuerà a darla in altro modo. Quindi non qualcuno, è che si qualcuno chiude titola un po' pomposamente, Lanterne rosse su Agata e Romeo, perché appunto viene un ristorante cinese là, no? Sì, sicuramente è strano, sarà strano per noi e sarà strano per i romani trovarsi le cosiddette lanterne cinesi, però come ripeto è abbastanza naturale, perché noi che viviamo questo quartiere ci rendiamo conto che effettivamente quasi tutte le attività che sono state vendute dagli italiani, sempre virgolettato, sono andate ai cinesi, perché comunque il quartiere è questo, un quartiere multietnico vissuto da tante diversità, e per loro sono quelli che investono, che comunque vogliono vivere a Roma, giustamente investono e è così. Però ripeto, è stata una scelta molto serena da parte nostra, senza nessuna, diciamo, polemica, ecco. La ringrazio, grazie Carla Caraccio per essere stata con noi, ci ha consentito di raccontare questa piccola storia che arriva da Roma e che però riguarda un pezzo di storia della capitale e non solo della capitale, evidentemente. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede in borsa, ci ritroviamo subito dopo e parleremo di caccia. C'è una legge che sta arrivando in Veneto, progetto di legge, è in fase di discussione, che prevede multe tra i 600 e i 3.600 euro per chi disturba i cacciatori. Ovviamente sta montando la polemica, soprattutto da parte degli animalisti. Parleremo col proponente di questa legge, a tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, i nostri titoli. A protesta contro i profughi, gli abitanti di Gorino, frazione di Goro nel Ferrarese, impediscono con le barricate l'arrivo di 12 donne. Presentato il piano per il Monte dei Paschi, 5 miliardi di aumento di capitale, 2600 esuberi e il taglio di 500 filiali. Manovra ancora attesa per la lettera di Bruxelles all'Italia, vogliono farci le pulci, ma noi rispettiamo le regole, dice Renzi. Vietato conservare le ceneri in casa, disperderle o farci gioielli. Sono queste le regole della Chiesa per la cremazione. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo. Prima di proseguire il nostro giro per l'Italia, una doverosa risposta ai tanti ascoltatori che hanno scritto lamentando un presunto tono aggressivo nei confronti del sindaco di Goro. Al sindaco di Goro ci siamo limitati a fare delle domande, vi suggerisco di andare a riascoltare l'intervista, ed era il sindaco che sostanzialmente ci ha girato intorno. Qua non c'è la condanna di nessuno, abbiamo fatto le domande, è d'accordo con i suoi cittadini e non rispondeva. Gorino potrà ospitare profughi in futuro e non rispondeva, abbiamo semplicemente rifatto la stessa domanda. Punto e chiudiamola qua. Chiudiamo parlando di caccia, lo facciamo con Sergio Berlato, che è presidente della terza commissione del Consiglio regionale Veneto, consigliere regionale di Fratelli d'Italia. Buongiorno e benvenuto Berlato. Buongiorno a lei e ai suoi radioascoltatori. Allora, sua l'idea di multare con una sanzione variabile tra i 600 e i 3600 euro chi disturba i cacciatori, ho capito bene? Sì, è una proposta di legge che ho presentato in Consiglio regionale, che verrà discussa domani presso la commissione che presiedo e che verrà approvata per poi essere definitivamente approvata dal Consiglio regionale nelle prossime sedute. Tra i 600 e i 3600 euro, so che gli ambientalisti stanno già protestando per questa cosa qua, perché è una multa rilevante. Guardi, innanzitutto le dico che la mia non è neanche un'idea originale, perché questa è già una legge vigente in Francia, ad esempio, con un sì. decreto. Le dico, mi scusi, posso? Dica. Anche in Liguria, perché ce ne siamo occupati di questa cosa qua, non con queste cifre, però anche in Liguria è in vigore una legge di questo tipo. Prego. Sì, è una legge che riguarda solo la caccia in Liguria, mentre la proposta di legge che ho presentato io, la numero 182 dell'11 ottobre, prevede sanzioni amministrative per chiunque metta in atto in maniera intenzionale iniziative miranti ad impedire l'esercizio della caccia e della pesca. Prevediamo sanzioni amministrative che vanno da 600 euro ad un massimo di 3600 euro, a seconda della recidività del soggetto che commette questa illegittimità. Lo sai, c'è già qualcuno qua via SMS, Berlato, che fa qualche battuta, no? Dice: verbale guardia caccia, il signor Fagiano svolazzando tentava di salvarsi, in multa di 600 euro. Mi permetto una piccola, al di là delle battute degli animalisti che conosco bene da tanto tempo, partiamo dal presupposto che la caccia e la pesca sono attività lecite, che sono normate da specifiche direttive comunitarie, da leggi nazionali e regionali. Questo è un dato assodato, no? E quindi va anche ricordato che chi esercita questa attività paga delle tasse di concessione sia governativa che regionale. La caccia, ad esempio, ogni cacciatore ogni anno deve pagare, per esercitare questo diritto garantito dalle normative vigenti, deve pagare 173,16 euro di tassa di concessione governativa. Oltre a questo paga una tassa di concessione regionale che va dagli 84 ai 173,16, poi una quota di accesso agli ambiti territoriali di caccia e compressori alpini che vanno da 100 a 600 euro. Quindi chi è in regola con la legge venga garantito nel suo diritto di esercitare queste attività lei dice Berlato, paga, e quindi è giusto che eserciti quello per cui paga, no? Non solo perché paga, ma anche perché paga, perché questo è garantito come un'attività lecita, sia caccia che pesca, così come vogliamo garantire il diritto di manifestare a coloro che dissentono da queste attività, purché lo facciano nel rispetto della legge, quindi rispetto reciproco. Alle volte capita, i social network ne sono una testimonianza con tantissimi video, di estremisti animalisti che, anziché limitarsi a manifestare il loro dissenso nel rispetto della legge, sono protagonisti di vere e proprie aggressioni, non solo verbali, nei confronti spesso di soggetti anziani, di cacciatori anziani isolati, che sono inermi a queste aggressioni, e quindi riteniamo opportuno che, garantendo il diritto di manifestare a chi lo vuole fare, lo debba fare nel rispetto della legge e nel rispetto della libertà altrui, altrimenti qui ci sono delle violenze che non sempre vengono adeguatamente sanzionate. C'è già l'articolo 610 del codice penale che parla di violenza privata, ma purtroppo questo articolo del codice non viene mai applicato, quindi noi prevediamo una specifica sanzione amministrativa per chi intenzionalmente, attenzione, non in maniera fortuita, non per caso, non per caso, ma intenzionalmente. Allora, io la ringrazio per l'altro, devo veramente chiudere. Siamo sicuri che di questa legge veneta si parlerà parecchio nelle prossime settimane. Ci fermiamo, traffico, Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.